Ehi, a tutti i cristiani che raccontano in giro leggende metropolitane sulle pecce sana fa una risata, o semplicemente perché non gli conviene accettare la storia vera. Sciamo! Sona lu discussini, sona calurre che non perdona. Dice mi tina basica di intono una canzona. La storia due di fiacca mo di conto è da buona. Weni marucci sin tra lu sangu vi la sta cantuno quani. Invidiosi di cristiani che gullo di stati buoni. Uozamona mano ci castai gulli guglioni. Assuda di cristiani di paesi di qua mero. Una voce che giurava tutti i paesani nostri. E siccome quasi tutti ci sono baci per lumiero. Di cui una di fermi neanche uno di canistri. Dici uno che era so, sta periodo delle zioni. E non festa dici a tu, ti vi faccio stare buoni. Con gli uni o con gli altri gridava pure gli statici. Dici divi la prima che sicuro non sbagliati. Sona lo discussini, sona calore che non perdona. Dice mintina basica d'intorno una canzona. La storia due di fiacca mo ti conto che da buona. Buoni marugi si intra lo sangue vi la sta cantuno quanni. Invidiosi di cristiani che gullo di stati buoni. Uozzamo una mano ci castai gulli guglioni. La storia vera si ne è quella che senti i timoni. Lo saccio non vi piace, dice no non vi conviene. Facciti vi capace che così stanno le fatti. Apriti mo le orecchie rumani di tutti i citti. Tornamo un modo a reto che non saccio manco l'anni. Tra la zona nostra girava una malattia. Uemmini di qua me lo superamo di danni. Invece le marugi si l'ancarrara la magia. Sona lu discussini, sona calure che non perdona. Dice mintina basica di intorno una canzona. La storia due di fiacca mo di conto è da buona. Buoni marucci si intra lo sangue vi la sta cantuno quanni. Invidiosi di cristiani che gullo di stati buoni. Uozzamo una mano ci castai gulli guglioni. Poveri sfortunati e la femmina che angia. Facevano tanti mossi ma la panza non crescia. Spaccavano sempre i fighi, gallietto non funzionava. Villaggia di ridotta la simenti non piava. Dissi la carosa vi mistero vi magia. O amaruggio ginca chianta la simenti sempre via. Bello mia, c'è gli spicci di spacca li fighi tuni. Caio degno ce faremo con tutti gli guglioni. Sona lu discussini, sona calure che non perdona. Dice mintina basica d'intono una canzona. La storia due di fiacca mo di conto è da buona. Buoni marugi si intra lo sangue vi la sta cantuno quanni. Invidiosi di cristiani che gullo di stati buoni. Uozzamo una mano ci castai gulli guglioni. Cata capita? Arredo! Sona lu discussini, sona calurre che non perdona. Dice mintina basica d'intono una canzona. La storia due di fiacca mo di conto è da buona. Na na na na na na na na na na. Buoni marugi si intra lo sangue vi la sta cantuno quanni. Invidiosi di cristiani che gullo di stati buoni. Uozzamo una mano ci castai gulli guglioni. We'll be right back.